se tu ci fossi ancora, ci basterebbe un sorriso per un abbraccio di un'ora. Il mondo cambia, ha scelto la bandiera, l'unica cosa che resta è un'ingiustizia più vera. Qui tutti gridano, qui tutti noi siamo diversi, ma se li senti parlare sono da sempre gli stessi. Quante bugie, quanti segreti in fondo al mare. Pensi davvero che un giorno non li vedremo affiorare? Segreti in fondo al mare.